Superscope presenta Il brutto anatroccolo. In campagna, in una bella giornata estiva tra i giunchi, vicino allo stagno, mamma anatra era intenta a covare le sue uova. Che caldo che fa! Sarebbe ora che queste uova cominciassero a schiudersi. E così almeno potrei andare a farmi una bella nuotata. Dopo pochi giorni, i gusci delle uova cominciarono a rompersi e ne vennero fuori dei graziosissimi anatroccoli, felici di vedere la luce del sole ed il prato smaltato di fiori. Ma mamma anatra era molto preoccupata. Una delle uova era rimasta intatta e chiese perciò ad un'anatra più anziana: che cosa può essere successo a quest'uovo? Non si apre e non me la sento di lasciarlo così. Scommetto che è l'uovo di un tacchino. E allora lascialo perdere. Sì, deve essere proprio l'uovo di un tacchino. Mamma anatra però non le dette ascolto e continuò a covare l'ultimo uovo rimasto, e finalmente il guscio si ruppe e ne uscì l'ultimo anatroccolo. Brutto bambino, davvero brutto e per nulla somigliante agli altri nati. Oddio mio, com'è brutto! Non somiglia proprio a nessuno degli altri miei figli. Eh sì, la stessa mamma anatra rimase molto male, ed il piccino, che non ne aveva alcuna colpa, ben presto s'avvide d'essere allontanato da tutti e di non piacere a nessuno. Divenne perciò molto triste. Un giorno mamma anatra portò tutti i suoi anatroccoli a nuotare nello stagno, e anche quello brutto nuotò in fila con gli altri. Sì, sarà brutto, ma nuota bene, perciò... Sì, è senza dubbio mio figlio. Su, venite figliolini. Ora vi presenterò alla nostra regina. Quando le passerete dinanzi, fatele un bel inchino. Mi raccomando, è molto importante. E i piccoli anatroccoli si misero in fila indiana ben benino e cominciarono a sfilare dinanzi ad una vecchia anatra orgogliosamente seduta nel centro del cortile. E tutti fecero il migliore degli inchini. Ma le altre anatre non volevano che questi ultimi anatroccoli venissero a vivere con loro. Ma siamo già in troppi qui, non abbiamo bisogno di altri. E poi guardate quell'anatroccolo com'è brutto, quasi quasi gli do un morso. Oh no, sì, buona con lui, è così giovane. Sì, ma è strano, grosso e brutto, ecco quello che è. La mamma cercò di spiegare che era rimasto più a lungo degli altri nel guscio e che questo probabilmente lo aveva reso differente. Sì, si cercò, ma ella stessa non riusciva a volergli bene come a tutti gli altri, tanto che finì per dire: come vorrei che tu non fossi qui. Non farai mai parte della nostra famiglia. Questo rattristò la povera bestiola, al punto di farlo scappare via. Un po' camminando, un po' volando, scavalcò il recinto e alla sua vista gli uccellini scapparono in tutte le direzioni. Anche gli uccelli fuggono. Sono proprio brutto. E continuò a camminare finché arrivò ad una palude e lì riposò la notte. Il giorno dopo incontrò due anatre selvatiche. Sei proprio brutto, sai, ma basta che non ci vieni troppo vicino, puoi anche rimanere. Povero piccolo. L'unica cosa che voleva era un po' di cibo e un posticino nella palude per riposarsi. Rimase perciò lì tranquillo finché due occhette gli si avvicinarono. Ciao, perché te ne stai qui tutto solo? Vieni verso il sud con noi. Siete molto gentili. Le oche s'alzarono in volo, ma ad un tratto s'udirono due forti colpi. Ed entrambe caddero uccise dalle pallottole dei cacciatori. Arrivò di corsa un grosso cane e le portò via. Annusò prima l'anatroccolo, ma lo lasciò stare. Sì, devo essere molto brutto. Non mi vuole neanche un cane. Era quasi notte quando rimisero di sparare. Il brutto anatroccolo attraversò allora di corsa il prato ed arrivò ad una fattoria. S'era intanto levato un forte vento freddo e l'anatroccolo fortunatamente trovò un posticino caldo per passare la notte. Il mattino dopo, una vecchia che viveva nella casa con un gatto e una gallina lo trovò. Voleva molto bene agli animali, li trattava come fossero bambini, perciò disse all'anatroccolo: «Oh, che fortuna averti trovato! Potrai farmi delle uova e aiutarmi così a portare in casa qualche soldo.» Non ci vedeva molto bene quella vecchia bambini e non si era accorta che era un anatroccolo e ancora molto molto giovane per giunta. E poiché dopo parecchie settimane le uova non s'erano ancora viste, il gatto e la gallina gli dissero: «Sai fare delle uova?» «No.» «Sai fare le fusa come me?» «No.» «Ma allora che cosa sai fare?» «So nuotare e tuffarmi nell'acqua.» I due stupirono. Ma chi mai aveva sentito dire di qualcuno a cui piacesse stare nell'acqua? Via! Beh, è meglio che me ne vada. Non mi vogliono neanche qui. E partì. Venne l'autunno e le foglie acquistarono colori bellissimi. Cominciava a fare molto freddo. Il povero anatroccolo non sapeva più dove andare e una sera, mentre era seduto vicino al lago, vide due splendidi uccelli bianchi che scivolavano sull'acqua. Non sapeva che fossero cigni. Erano però così belli che sentì in sé come uno strano calore. E quando volarono fuori dell'acqua, dirigendosi verso il cielo, egli allungò il collo e li seguì con gli occhi fino a che sparirono. Allora si tuffò sott'acqua e li rimase per un po' di tempo. E quando tornò a galla, si rese conto di voler bene a quegli uccelli. «Ah, peccato. A loro non piacerò mai. Sono troppo brutto.» Giunse l'inverno e una notte l'anatroccolo si congelò nel ghiaccio della palude. La mattina dopo un contadino lo trovò. «Oh, povero piccolo, sei tutto congelato. Ora ti aiuto io, ti aiuto io.» Ruppe il ghiaccio e lo portò a casa. Vicino al fuoco l'anatroccolo cominciò a riprendersi. I bambini del contadino avrebbero voluto giocare con lui, ma egli era così spaventato che si mise a correre per tutta la casa, infilò la porta aperta e corse fuori. Soffrì molto durante quell'inverno, ma in un modo o nell'altro riuscì a sopravvivere. Poi un giorno il sole ricominciò ad essere caldo e i fiori spuntarono nei prati. Era nuovamente giunta la primavera. L'anatroccolo aprì le ali e si rese subito conto di essere diventato più forte e, incoraggiato, si avviò verso un bel giardino. C'erano tanti alberi di già verdi e c'era anche un bel lago, e nel lago tre bellissimi cigni. Li riconobbe subito lui e disse a se stesso: «Andrò da loro e magari mi lascerò uccidere. Sono così brutto che certamente non mi vorranno intorno, ma preferisco essere ammazzato proprio da loro piuttosto che soffrire durante un altro lungo inverno.» Saltò nell'acqua e nuotò. Raggiunti i due cigni, disse: «Su, uccidetemi se volete.» E chinò la testa verso l'acqua. Ma ciò che vide proprio riflesso nell'acqua gli fece battere violentemente il cuore. Era diventato un bellissimo cigno bianco. Alcuni bambini che passeggiavano nel parco gridarono: «Guarda, abbiamo un nuovo cigno, e com'è bello!» E gli altri cigni lo trovarono così giovane e bello e gli si inchinarono davanti. Benvenuto. Siamo felici di averti con noi. Oh, grazie, grazie. Non desideravo altro. L'anatroccolo conobbe allora finalmente la felicità. Ormai la sua vita si sarebbe svolta lì, nel laghetto, con gli altri cinque.